vento ancora si fermava un po'. Tra i miei capelli inventavo favole. Poi caddi giù, ma avevo già le mani in tasca. Dall'incenso e dal pianto che qualcuno venderà. Dove vanno gli angeli a dormire? Dove sono finite le illusioni e i sogni che nessuno compra più? Tra incerte nostra Ripano già. Troppo scuri i silenzi dei dintorni e qui dentro forse le lucciole non si amano più. Certe